Ascoltami, di cosa stiamo parlando? Di uno sballo? No, stiamo parlando di un viaggio bello. Un safari del subconscio. Una spedizione della mente, ok? Una passeggiata mentale. Questo pianeta è stato stuprato, depredato e fottuto. E la mente è l'unico territorio veramente inesplorato. E questa merda è la nave. È la mina, la pinta e la Santa Maria. E tu sei macellato. Oh merda! Allora che cosa ne dici, mio caro amico servo del cavolo? Vuoi farti un giro o vuoi startene seduto qui?